Ciò che chiamiamo spazio è vasto. La civiltà umana si era portata alla sua scala. È un fulgore che dura meno di un istante. E che un istante di fulgore ne incontri un altro. È un evento che non capita poi tanto spesso. Il sistema solare, la Via Lattea, nonostante le conquiste fatte, non abbiamo ottenuto niente. E se anche abbiamo trovato un modo per superare la velocità della luce, appare evidente che l'umanità è disperatamente sola. Salve a tutti e bentornati a questa nuova puntata sull'Arcadia, grazie a Radio Big World. L'umanità è disperatamente sola, nonostante abbiamo viaggiato nello spazio, abbiamo esplorato il sistema solare. Siamo soli perché siamo soli. Siamo solo noi. Noi esseri umani, noi siamo qui, nella Terra. Siamo noi. Però oggi non voglio parlare tanto di spazio, voglio parlare di ricordi. I ricordi di quando eravamo piccoli. Mi sono venuti in mente tanti ricordi, e in fondo i ricordi sono parte di noi, è quello che ci rendono quello che siamo. I ricordi, le memorie, quelle le immagini che ci portiamo dietro nonostante siano passati anni e anni. Di quando eravamo piccoli c'è questo fatto che mi è tornato in mente di quando ero piccolo, penso avessi avuto 6-7 anni forse. Ero con i miei genitori, stavo visitando un'isola, ora non mi ricordo che isola è, però mi ricordo perfettamente che tutti quelli presenti, non solo i miei genitori ed io, ma tutte le persone che erano lì a visitare quell'isola, si stupirono di una cosa. Di cosa si stupirono? Si stupirono dell'orizzonte, che non si vedeva nient'altro che il mare, ma c'era una cosa che ha fatto stupire tutti, compreso me, e che mi è rimasta dentro e che solo oggi gli so dare una spiegazione. Si tratta del sole piccolo. Uno dice: come il sole piccolo? Il sole non può diventare piccolo. E invece sì. Mi ricordo benissimo che ero praticamente sulla costa di quest'isola insieme a tutti quegli altri visitatori. E il sole, mi ricordo, tutti rimasero a bocca aperta perché il sole era piccolissimo, era proprio un puntino, era rosso acceso. Rosso acceso proprio sul bordo dell'orizzonte ed era piccolissimo. C'era un'aria di stupore generale che mi è rimasta tuttora e trovo tuttora incredibile quell'immagine, anche se ormai sono passati tanti anni, però ho quell'immagine impiantata nel cervello e no, continua a ripetersi continuamente. Mi ricordo era basso, vicino all'acqua, sembrava lontanissimo e piccolissimo, come ho detto. C'era un po' di stupore generale, ma anche un po' di paura, perché era una cosa nuova che le persone che vivono, che hanno vissuto per tutta la vita, diciamo come qui nel Val d'Arno, e non sono, che non hanno visto tanti fenomeni del genere, perché siamo sempre rinchiusi dentro quattro mura, dentro la città, comunque lontani dalle coste. Chi sicuramente vive lungo le coste o viaggia spesso ha notato questo fenomeno molto più spesso. Io sfortunatamente l'ho vissuto pochissime volte e questo è un ricordo che mi porto dietro ed è Bellissimo. Cosa mi ha fatto tornare in mente questo ricordo? La luna enorme che c'è stata in queste sere. Non è che la luna si avvicina alla Terra e quindi la vediamo enorme rispetto al sole, perché siamo abituati a vedere la luna piccolina nel cielo, almeno in Italia, e poi invece alziamo lo sguardo e vediamo questa cosa enorme che ci illumina. Dice, perché? Perché è l'atmosfera che agisce da lente di ingrandimento, quindi vediamo la luna più grande. E riguardo al sole più piccolo, quella è la prospettiva, il fatto che tutte quelle persone, io presente, abbiamo visto il sole piccolissimo, il sole diventare un puntino piccolissimo e poi sparire all'orizzonte, è la prospettiva, come dico sempre. Se non fosse una fonte di luce più vicina alla Terra e più piccola rispetto a quello che ci hanno detto, non vedremo questo fenomeno del sole diventare più piccolo e allontanarsi e sparire all'orizzonte. E questo può avvenire solo su un piano, solo su un piano, e solo se il sole è vicino alla Terra e non è certo un milione di volte più grande della Terra, come ci hanno insegnato. Questo mi porta a un altro ricordo, perché poi colleghi tutto, inizi a collegare tanti ricordi, e quando gli dai un senso a tutto ti fa rimanere quasi a bocca aperta. Ci sono quei secondi, come diceva prima, quell'attimo di fulgore che capita raramente, in cui ti rendi conto di come sono le cose davvero, e qui si torna al controllo mentale che subiamo fin da piccoli, anche se ora mi rendo conto che sono tutte teorie quelle che mi hanno fatto vedere e che mi hanno detto. Non incolpo le maestre, nemmeno gli insegnanti, perché secondo me non sono, come ho detto, sia politici che insegnanti, non si immaginano nemmeno, ti mostrano quello che gli è stato detto di farti mostrare, perché a un bambino di quell'età gli devi mostrare queste cose per convincerlo dello spazio, per convincerlo, per avere paura dell'universo, perché non sai mai, ti dicono tra 5 miliardi di anni il sole esploderà, no? Quindi la tua reazione è, io ebbene fo quello che mi pare adesso, perché tanto poi se deve morire tutti, qualsiasi cosa si fa, anche se butto le carte per terra o mi comporto male con gli altri, che senso ha? Tanto si deve morire tutti, esplode il sole a un certo punto, quindi non so, io la vedo così, poi non so voi come la potete interpretare, come cosa. Sicuramente a tanti è stato fatto vedere questo video, o comunque altri del genere, dello spazio o altre cose. Quello che mi stupisce è che io ero troppo piccolo per poter, e non c'era nemmeno tutta questa tecnologia che c'è oggi, che ci permette di poter cercare i nostri dubbi, di poter cercare le risposte ai nostri dubbi. Quindi ora capisco perché vedo il sole, ho visto il sole piccolo in quel modo, diventare un puntino, perché la Terra non è un globo e perché il sole non è lontano miliardi di chilometri come ci hanno detto, non è enorme come ci hanno detto. Un po' mi ha fatto tristezza, ma allo stesso tempo mi ha dato tanta forza. Questo ricordo mi ha dato tanta forza, perché è la prova che una volta vedevamo le cose per quello che erano e non per come ci hanno mostrato. L'umanità potrà essere anche sola, ma siamo uniti, siamo tutti della stessa pasta. Sono sempre più convinto che siamo il frutto di una volontà più grande. Lo potete chiamare Dio, lo potete chiamare in tanti modi diversi. C'è chi li chiama alieni, io non credo negli alieni, però sono sempre più convinto che questo mondo dove viviamo noi è la volontà di qualcosa di superiore, di un'intelligenza superiore alla nostra. Mi faceva piacere raccontarvi questa cosa, quindi vi lascio ai vostri ricordi. Un saluto dall'Arcadia, grazie a Radio Big World e alla prossima, ciao. Un istante ripetuto nel tempo diventa eterno. È questa la libertà.